pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io ho conosciuto Suor Margherita al cinema. Davano Grindhouse di Tarantino. Da allora assieme a lei ho passato veramente bei momenti e non la tradirei mai. Ora vi insegno come si fa uscire dal mondo. Buttate nel mixer 5 decimi di tequila, 3 decimi di Cointreau, 2 decimi di succo di lime e agitate bene. Poi vi serve uno spicchio di limone e un mucchietto di sale della Camargue. I bicchieri devono essere belli ghiacciati. Bagnate il bordo con il limone e inzuppatelo nel sale che farà una bella crosticina. A me piace che il sale sia tanto, così quando andate a bere la prima cosa che proverete è l'arsura che vi darà il sale assieme al limone. Così vi verrà ancora più voglia di bere. All'inizio Sor Margherita vi frega, perché il primo gusto che arriva in bocca è quel bel dolcino mandarinato del Cointreau. E pensate che sia roba da signorine e mandate giù senza ritegno. Per me la felicità è stato un attimo quando inaspettatamente ho fatto un risultato pazzesco in una regata che non me l'aspettavo. Abbiamo fatto terzi al Mille Vele di Genova e quando ho visto terzi ho cominciato a gridare, a saltare, che sembrava che avessi fatto il primo assoluto. Questa è la felicità, qualcosa inaspettato che ti capita magari per premiarti di altri sacrifici che neanche tu pensavi di aver fatto, ecco. La felicità per me è ballare qualsiasi cosa in qualsiasi momento è bello e soprattutto se uno gareggia come ho provato io e vince qualcosa è ancora più bello. Il lime è un frutto esotico e favorisce ad asfaltarvi ugola e laringe di quella bella colata dolce da belle damine delle colonie e qui siete fregati. Il tequila scivola come una serpe senza farsi sentire e si infila dritto nelle budelle, aspetta un po' e poi si scatena. È roba strana il tequila. È fatto spumendo l'agave, che è un cactus che si pappavano già gli aztechi. Gente esperta di serpenti e coratella umana fatta arrosto. Se siete arrivati fino a qua non tornate più indietro. Suor Margherita già vi è salita sulle ginocchia. Farla scendere non sarà per voi più possibile. La felicità viene dall'esterno. La mia vita, se non avessi incontrato delle persone che mi avessero voluto bene gratuitamente, perché a loro volta avevano incontrato il senso della vita, io non sarei felice. A che vale la vita se non per essere data, diceva Paul Claudel? La vita va investita, altrimenti il cuore ferito non è mai domo. Delle persone, ciò che cerco non è una risposta, ma che la propria domanda non sia ferma, non sia assopita. Ho una famiglia felice, ma con tanti problemi, che si può essere felici. Io in questo momento, in questo periodo sono felice perché ho conosciuto una persona, un ragazzo che mi sta facendo sognare. Per me la felicità in questo periodo è poter sognare. Per me la felicità è fare sesso tutti i giorni. Io penso che la felicità sia un piacevolissimo egoismo. Io ammetto di essere felice, in primo luogo, quando sto con mia figlia, perché mi piace stare con lei. E in secondo luogo, ad essere molto sincero, siccome non sono un uomo molto fedele, sono felice quando sto con una donna. È molto semplice il mio senso della felicità, forse è sillogico, ma è questo. E io insisto. Non è un insulto alla miseria, non è blasfemia, non si fa rabbia a nessuno pretendere che si possa definire la felicità. La felicità è qualcosa di ineffabile, qualcosa di inafferrabile, qualcosa di non riproducibile, qualcosa che non ci aspettiamo, che però quando ci arriva perché non possiamo raccontarlo? Perché non riflettete un attimo su quando vi siete sentiti felici l'ultima volta? Felici, felici, felici, felici, felici, felici, felici, felici, felici. Non barate però. Non venite a raccontare che avete provato felicità nella gioia altrui, nel dono di sé, nell'altruismo, nelle piccole gioie del quotidiano. Devo dire che ho rischiato. Ho dato la formula della mia felicità. Voi direte, ma vecchio, pazzo, stupido, alcolizzato, il Margherita, ti fai un cocktail. Beh sì, è una stupidaggine. Ma sono piccoli istanti che ho centellinato, ho assaporato, ho descritto, ho cercato di capire nel profondo quale sia la formula per cui mettere assieme tre elementi, una volta ogni tanto, una sera a casa, una sera fuori casa, un pomeriggio, quando capita, non con dedizione, non con pedisseco ostentazione, ma ogni tanto così, pezzo Margarita, farselo in compagnia. Improvvisamente calano quelle barriere che ci sembrano togliere ogni possibilità di essere felici, ci si accorge che la felicità è così, a portata di mano, è un istante, è qualcosa di fulminante. Beh, oggi 800 24 00 24, insisto, con illustri ospiti che ci diranno quali sono le radici profonde della felicità che gli umani sempre cercano, ma trovano soltanto quando non la cercano. Fate il conto alla fine di una giornata su quanto tempo avete dedicato al vostro essere felici senza porvi il problema degli altri. Felici. Felici. Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Un istante della sua felicità, ce la regali, ce la racconti, ce la descriva. Vabbè, intanto devo dire che è veramente un istante, perché guai, se durasse moriremmo di infarto. Quindi dura veramente un istante, è qualcosa di esplodente e che ti colpisce d'improvviso, ecco. La mia felicità è questa, che lo scorso anno ho tenuto delle lezioni di criminologia e avendo già una bella età, diciamo, non avendolo mai fatto prima, la prima lezione terminata, che ero andata col panico, diciamo, terminata quella, sono uscita, beh, io ho fatto il percorso di casa, ma appena uscita, con qualche cosa, guardi, di inenarrabile, veramente. Ha presente Leopardi l'infinito, sempre quella siepe? Beh, ho presente esempi personali molto più banali, ma che forse rendono molto più l'idea dell'adrenalina che scoppia improvvisamente e uno non sente il terreno sotto i piedi, non si accorge di nulla. Ma è così, cioè io sono uscita, da terminata questa lezione, io non ero più, io ero in cima al mondo, non so rendere l'idea. Comunque, beh, lei era felice perché aveva fatto una esplosione di sé. Ho realizzato me stessa, non lo so, una mia autostima, qualche cosa, ma qualche cosa di non di cose banali che ti possono succedere, di soddisfazioni, gratificazioni, che, no, era... È stato un qualche cosa veramente, e poi non si è più ripetuto, voglio dire, dopo la seconda lezione, la terza, sì, dopo sono soddisfazione, ma quella prima volta è stato qualche cosa che io non ero più, io potevo essere in capo al mondo, insomma. E nella vita non le è accaduto mai altre volte una sensazione simile? Guardi, che io sappia, così, ma così immensa, non so... Forse sì, riguardo il mondo dei bambini, ecco, quando ho avuto, non quando ho avuto, subito dopo, sì, ecco, forse subito dopo il parto, ma quello è anche chiara, è la liberazione da un dolore, ecco. Sì, però sì, rende perfettamente la differenza, la sensazione. Infatti io non avevo nessun dolore. Era, come diceva ieri un'ascoltatrice, un percorso. Il percorso non porta mai alla felicità, ma porta a un obiettivo, a un bersaglio raggiunto. La felicità è altra cosa, come ci dice anche Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ascolti, no, io volevo soltanto parlare della felicità, soprattutto sottolineando il fatto che, come tutte le sensazioni che riguardano il nostro corpo, non so se mi sente bene? Sì, c'è un po' di rumore di fondo, però se lei... Sì, sono per strada, sì. Sono in giro col mio cane, e quindi, come tutte le sensazioni che vengono prodotte dall'organismo, è chiaro che hanno dei mediatori chimici. Sono delle sensazioni che passano, secondo me, attraverso l'ipofisi naturalmente, che è la ghiandola che produce degli ormoni che vanno a colpire gli organi di bersaglio, dà quella sensazione di benessere, di gratificazione, di appagamento, che comunque è molto accostabile al concetto della felicità. Sì, ma guardi, posso dire una cosa? Sapere che è merito della dopamina o di alcune endorfine o di altri neurotrasmettitori quel mio istante di felicità non mi toglie nulla, anzi ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato questa chimica interna capace di darmi queste sensazioni. Per felicità qui si intende una pura, egoistica, esplosiva e devastante sensazione di piacere individuale, personale e incondizionato. La felicità non ha una formula esatta, ma ognuno di noi l'ha comunque sfiorata ogni tanto. Perché quindi non ce la riprendiamo ogni volta che vogliamo? La felicità non ha una formula esatta, ma ognuno di noi ha perlomeno un'approssimativa formula alla propria felicità individuale. Io la mia l'ho data, ne subirò terrificanti conseguenze, aspetto la vostra. Esiste un limite all'essere felici? Insomma, essere felici, oltre ad essere un lecito diritto, non è pure un nostro inalienabile dovere. Felici, felici, felici, felici. riprendiamo a parlare della formula della felicità, formula difficile, impalpabile, improbabile, che sto cercando da un paio di giorni di sintetizzare. Mi rendo conto che è uno sforzo titanico, è un'operazione assolutamente priva di senso, cercare di racchiudere in poche parole, in esperienze individuali, è quello che è in fondo il problema che attanaglia l'umanità sin dall'origine, la possibilità di essere felici. Io vi leggerò una frase adesso e poi parlerò con l'autore di questa frase, riguardo proprio alla nostra difficoltà, impossibilità, perché è percepibile, si sente quanto sia difficile veramente dire cosa sia la felicità, descrivere la felicità, non confondere la felicità con attimi di piacevolezza, di gioia, di appagamento di desiderio, di raggiungimento di obiettivi. La frase è questa: la nostra epoca non sa più godere perché non ha saputo accettare il dolore come fonte dell'umana esistenza. Sfiaccato dalle comodità, soffocato dal ritmo della vita, sazio di piaceri che non sanno proporre altro al di là di se stessi, il cuore si stordisce ed allontana lo spettro della morte, senza peraltro superarne il timore. Queste parole sono scritte da Mario Polia. Mario Polia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Mario Polia, antropologo, archeologo di fama internazionale, professore di antropologia all'Università Gregoriana a Roma. Polia, ci conosciamo da tanti anni, quindi ci diamo del tu. Perché tu associ la difficoltà, se non l'impossibilità, di definire attimi di felicità nell'uomo moderno con la sua impossibilità a definire ancora il dolore, la morte e la sofferenza? Evidente, evidente. Se non accettiamo la vita per quello che è, con i suoi momenti di gioia, di bellezza, di armonia, ma anche con i suoi momenti di dolore, di tristezza, di spaesamento, eccetera, noi ci inventiamo un concetto di felicità che prescinde dalla realtà della vita stessa, ossia negando che possiamo essere felici nei momenti in cui ci è concesso essere felici e non sapendo sopportare in un modo conveniente i momenti di difficoltà, noi operiamo una scissione tra ciò che è la vita come vorremmo che fosse e ciò che è la vita come in realtà è. Non si tratta con questo di accettare passivamente il dolore, tutt'altro. Il dolore accettato passivamente diventa un veleno possente per l'anima. La vita dei santi, la vita dei saggi, di diverse culture, ci dimostra come non si tratta di accettarlo negativamente, passivamente, ma accettarlo appunto come una dimensione della vita. Voglio fare un esempio: un malato terminale in un nostro ospedale, privo di qualunque connotazione religiosa, privo di fede, eccetera, e naturalmente vivrà con una angoscia molto intensa il suo dramma, la sua malattia. Una persona che invece aborda, si confronta con questo problema da un altro punto di vista, prendiamo ad esempio Madre Teresa di Calcutta, la quale ha sofferto moltissimo prima di morire. Bene, lei che cosa ha fatto? Ha usato il dolore come un'offerta, come un dono fatto a Dio perché lenisse i dolori di altre persone che erano incapaci di sopportarlo come lei invece poteva fare. Allora, noi antropologi usiamo un termine, si tratta di culturizzare la sofferenza. Che significa culturizzare la sofferenza? Darle un valore, darle una identità che ci permette di confrontarci con lei in una maniera non distruttiva. Cioè, come se noi fosse, scusami Mario, ci fossimo creati un anestetico alla felicità, come siamo ormai abituati a fuggire da ogni occasione di dolore, sia fisico, sia mentale, che spirituale, a tutto ci deve essere una cura. Per i dolori dell'anima c'è lo psicanalista, lo psichiatra, il maestro di vita. Per il mal di denti c'è il cachet, per altri mali c'è sempre una medicina. Quindi abbiamo l'anestetico anche per la felicità e non la proviamo? Ecco, purtroppo tra la differenza tra il dolore di denti e il dolore dell'anima, chiamiamolo così, perché poi angoscia la definiamo proprio così, come un senso di strangolamento dell'anima, della vitalità, eccetera. Ecco, mentre il dolore dei denti noi non possiamo curarcelo da soli, abbiamo bisogno di un medico esterno, Nel secondo caso, il medico esterno è solamente un mezzo per trovare dentro di noi quella capacità di essere noi medici di noi stessi. Ecco, se noi non facciamo questo, trasformiamo l'intervento esterno, che sia quello del padre confessore, che sia quello dell'amico, dell'amica, del consigliere o dello psichiatra, lo trasformiamo in un pericolo. E non otteniamo una guarigione vera, non otteniamo la soluzione del problema. Il problema fondamentale, secondo un maestro indiano che io amo e apprezzo molto, Shankara, diceva che la causa della nostra felicità e infelicità sta dentro noi stessi. Allora, stai a sentire un attimo, Mario, questa cosa ci aiuterà molto, assieme a te che sei appunto un antropologo e conosci certe culture e certi modi di essere in contatto con l'universo diversi da quelli di noi uomini civilizzati. Cosa che dice Giulia? Giulia, buongiorno. Sì, ciao Gianluca. Descrivi qual è il tuo momento di massima felicità. Sì, perché io ne ho parecchi, però uno di cui proprio ho coscienza vivissima è nel momento in cui sono in aereo e decollo. Nel momento in cui l'aereo rulla sulla pista, poi si ferma, partono i motori, io devo essere completamente concentrata in quel momento, perché proprio la sento fisicamente, proprio come una cosa che mi esce dal torace, dal petto, un'emozione talmente grande, e di voli ne ho fatti tanti, e ogni volta per me è un momento proprio di felicità totale. Ecco, Mario Polia, c'è un ricordo lontano di esperienze statiche, la signora che è felice nel momento in cui si leva al volo? Io miseramente, mestamente, ho posto come mia forma di felicità quella di un cocktail, il margarita, perché mi piace, perché è un momento che ti fa sentire leggero, ti aiuta a entrare in sintonia con le persone. Ecco, questi sono ricordi di tecniche ben precise che l'uomo conosceva per rompere con il velo del consueto e quindi far irrompere per alcuni istanti il momento della felicità? Sì, ricordo l'insegnamento di un vecchio, diciamo, maestro sulle Ande del Perù, dove io svolgo la mia professione di antropologo e la svolgo da tantissimi anni, oltre 30 per l'esattezza. Una volta, quando chiesi a questo vecchio maestro, tra virgolette, perché così lo chiamano i suoi indios, cosa fosse la felicità, lui mi disse: consiste nell'essere contenti di quello che si è, contenti di se stessi, ma non si può essere felici se non si è contenti del mondo che ci circonda, delle persone che fanno parte del nostro mondo. In altre parole, se la mia felicità deve costare pene agli animali, alle piante, alla comunità, al mondo, alla natura che mi circonda, questa felicità, secondo l'etica di questo maestro, che poi è l'etica degli indios delle Ande, è una felicità maledetta, infelice. Ricordo anche un altro aneddoto molto importante. Come qui da noi stanno cambiando le stagioni, allo stesso modo succede dall'altra parte del mondo, in Perù. E un giorno dei morti, che eravamo in un cimitero dove ci si va a pregare davanti alle tombe abbandonate, le antiche croci, ecco, alla fine della cerimonia una vecchietta si fece avanti e disse: preghiamo per la nostra santa madre terra che sta morendo. Quando io la presi in disparte e gli chiesi che cosa voleva dire, lei mi rispose: i nostri desideri, la nostra incapacità di accontentarsi, stanno uccidendo la nostra madre terra. Ovviamente si riferiva soprattutto al mondo civilizzato, alle notizie che filtravano attraverso la radio, attraverso i discorsi, ma delle quali la prova drammatica che qualcosa stava succedendo era il dissesto climatico. In pratica è questo, il concetto di felicità vissuto in un modo sano dovrebbe essere un concetto condiviso. Si è felici quando si può essere felici in mezzo ad altra gente, alla felicità della quale in qualche modo abbiamo saputo contribuire, in qualche modo. Se estraiamo la nostra felicità dalla felicità del contesto, facciamo la stessa cosa che dicevamo prima a proposito dei terapeuti, cioè scindiamo la nostra persona dal contesto, diventiamo asociali, ci chiudiamo in una tomba nella quale filtra molta poca luce e molta poca aria. Ecco, è perfettamente chiaro quello che ci ha detto Mario Polia, è un excursus veloce, sintetico, ma significativo del suo concetto per cui l'uomo occidentale, avendo perso contatti con alcuni flussi naturali che facciano parte della sua esistenza, è anche più difficoltoso per lui conoscere il concetto di felicità. Io riprenderei al volo un istante Stefano Morigi, che è il filosofo della scienza che ieri mi ha accompagnato nel primo percorso, per richiamarlo sul punto siamo arrivati ora. Stefano, buongiorno, ci sei? Buongiorno Gianluca, sì, ecco, ci sono. Vedo che però ancora risulta molto difficile, quasi eretico, anche con l'antropologo, anche con il conoscitore delle culture antiche, degli sciamani, via dicendo, usare questa sorta di rivoluzionario istante che noi non comandiamo, che non ci manda nessuno, che ci viene per motivi che non vogliamo definire, provenienti da nessuna circostanza definibile. Insomma, la felicità come un moto di razionalità ancora sembra che faccia molta paura. Guarda, da quanto diceva l'antropologo, e che condivido appieno, emerge una radicale e profonda difficoltà a fare i conti con gli aspetti più ingiustificabili della nostra esistenza. L'euforia incontrollata e il dolore insopportabile sono due accettazioni simmetriche e ugualmente incomprensibili e ingiustificabili, e questa è la difficoltà di accettare la vita anche nelle sue aspetti più illogici, come diceva appunto l'antropologo. Ricordo un testo su cui l'Occidente si è molto formato, Le Baccanti. Nelle Baccanti cosa succede? Entra in città a Tebe uno straniero che nessuno capisce bene chi è e sconvolge morale, legge e ordine della città. Quello straniero è Dioniso mascherato. Nessuno lo riconosce perché la morale consolidata non consente più di vedere quell'aspetto dello straniero che in realtà riguarda le anime di tutti i cittadini, ma che sono ormai, come dire, addormentate nel torpore moralistico delle leggi e delle consuetudini. Pagheranno questa ignoranza, pagheranno l'incapacità di non riuscire a vedere il lato più scuro della loro anima, che racconta molto di quello che sono e di quello che possono provare. Io auspico in questo senso nuove baccanti e nuovi stranieri, non per fare un'apologia del piacere o del dolore più sfrenato, ma per, come dire, indirizzare verso quell'accettazione della vita di cui parlava l'antropologo, che è l'accettazione e la capacità di convivere con gli aspetti più irriducibili alla serenità, alla comprensione e anche alla ragione, ma che ci riguardano molto radicalmente nel nostro animo. Ecco, io non avrei trovato maniera migliore per aprire la trasmissione con un messaggio dionisiaco che quello di dare la formula del Margarita. 800 24 00 24, stiamo seguendo un cammino serpeggiante, periglioso ma forse affascinante, alla ricerca di formule individuali della felicità. Licia, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio di avermi fatto partecipare, l'argomento è molto toccante e proprio oggi io sono tanto tanto felice, in questo istante ho gli occhi illuminati perché ho visto un momento di incontro, di affetto, di amore tra mia figlia adolescente e il suo fidanzatino. E sono molto felice di aver visto questo sentimento nei suoi capelli arruffati, nel suo desiderio di protezione e nel desiderio di mia figlia di farsi bella. E credo che, come madre, non so, ha dato un significato, ecco, alla sua nascita. Quindi equivale al fulmine di cui stiamo parlando, che schiude improvvisamente il grigiore del quotidiano e ci dà un momento di estatica felicità, aver visto sua figlia pronta all'amore. Sì, sì, penso proprio di sì, dottore. Sono attimi del quotidiano che bisogna avere sempre il cuore aperto per accoglierli, perché ci sono. Devo dire, la cosa mi commuove, fa piacere, sarebbe stato più calzante con quello che noi cerchiamo di dire che fosse stata lei colpita dallo strale immediato dell'amore in maniera improvvisa, irrazionale, non prevedibile, e mi avesse detto: improvvisamente mi sono sentita innamorata, non immagino perché, per come, per quando. Ma le è mai capitata una cosa del genere? Probabilmente, dottore, questa immagine ha rimandato al mio primo bacio, al mio primo incontro d'amore, capisce? Per questo è stato così fulgido, così splendente, perché mi sono rivista adolescente nell'attimo del mio primo bacio, di cui ricordo ancora il sapore indimenticabile. Esatto. Il fremito inafferrabile. Va bene, grazie Licia. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Rapidi ed invisibili passano i sommergibili. Bravo caro, sono un ex sommergibilista e racconto una brevissimamente. L'attimo più bello, siccome anche per me concordo con la signora, la felicità è un attimo fuggente realmente. Donne, motori, gioie e dolori. Più o meno, specialmente quando sono motori di sommergibili. Quando si emerge c'è una sensazione particolare, ma una veramente di completa felicità l'ho avuto diversi anni fa, quando siamo emersi dopo parecchi giorni di immersione anche a quota profonda e siamo venuti fuori al largo della Sicilia, una decina di miglia dalla Sicilia, il mare era una tavola, c'erano i pesci volanti, era l'alba e si sentiva il profumo delle zagare. Beh, le posso garantire che quei pochi che eravamo in torretta nella vela del sommergibile eravamo tutti quanti ammutoliti a vedere uno spettacolo che aveva della natura, quindi che aveva dell'incredibile, sentire il profumo delle zagare senza vedere la Sicilia, perché non la vedevamo, però diciamo il vento arrivava dalla Sicilia, e vedere i pesci volanti all'alba, mi credo, uno spettacolo da mozzare il fiato. Quella era la felicità. Forse erano sirene quei pesci volanti, magari. Non ho mai visto una. Anche perché io immagino, ho visitato sommergibili, che la vita del sommergibilista è una vita di totale deprivazione sensoriale, si ascoltano i rumori, adesso non più tanto, ma una volta... No, Nicoletti, il contrario, sommergibile, vede e sente tutto. Questo dicevo, dal punto di vista però dei rumori si ascolta tutto, il rumore dei pesci, del mare. Anzi, le posso dire a notazione che noi eravamo a parecchi, probabilmente stati da profondità, ma eravamo molto profondi, e sotto di noi a 900 metri è passato un biologico, un capodoglio. Cioè noi, al massimo espressione della tecnologia, un animaletto tranquillo, animaletto pesantino direi, della natura che passava a 900 metri, cioè qualcosa come 600-700 metri sotto di noi. Pensi po'. Quindi quell'istante di felicità condivisa fra voi che per prima siete usciti dalla torretta e sentire la zagra di Sicilia nelle nebbie. Il mare è una tavola, è una leggera bruma, un sole che stava per sorgere e i pesci volanti. È stato uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Ma guardi, tutti eravamo in quattro, comandanti in testa, siamo rimasti ammutoliti. Ma questo è bello, perché questa è una vera formula di felicità, è riproducibile. Quando mai vi capiterà nella vita di riemergere di fronte alla Sicilia e sentire il profumo di zagra, ma è un momento unico e quindi è giusto averla raccontata. Professoressa Eva Cantarella, buongiorno. Buongiorno. Io l'ho annunciata come esperta in culti dionisiaci, ma in realtà non è esattamente così. Lei ha scritto un libro, Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, che sta per uscire per Feltrinelli, però dovrebbe farci capire un po' cosa sta alla base di questo nostro desiderio che soffochiamo quotidianamente, di avere un fulmine che ci rapisca dal quotidiano. Ma guardi, la domanda non è facile, però posso dire una cosa che mi colpiva ho sentito queste due persone che parlavano, le ultime due persone, e mi colpiva molto il fatto che tutte e due, la signora che parlava del momento in cui si è innamorata, ha visto la figlia innamorarsi, no? E poi parlava del suo primo amore, e anche il sommergibilista, il quale parla di un momento di felicità condiviso con quelli che stavano sul sommergibile con lui, ma tutte e due queste persone segnalano un momento di grande felicità che è assolutamente individuale, diciamo nel senso di isolato dal contesto. Chi si innamora, e dato che stiamo parlando dell'antichità, diciamo chi veniva colpito dalle frecce di Eros o di Cupido, no? In quel momento è completamente isolato da quelli che sta attorno, quello che gli succede attorno, il mondo, appunto il contesto sociale, le guerre, la povertà, quello che sia. E lo stesso i sommergibilisti che stanno in questo mondo meraviglioso, in fondo al mare, sono appunto persone che sono assieme ma sono isolate. Ecco, mi colpiva questo. La felicità sembrerebbe qualche cosa appunto che richiede come staccarsi da tutto quello che sta attorno, parlo delle cose terrene, diciamo. Ma c'erano tecniche nel mondo antico? Io immagino le baccanti, ecco, sì, io pensavo proprio questo. Che entravano in estasi attraverso danze, libagioni. Sì, esattamente. Nel mondo antico hanno bisogno della stessa cosa. Devono riuscire a isolarsi completamente, ma lo fanno lì, ecco, nel corso di questi riti, che sono i riti dionisiaci in Grecia, i riti bacchici a Roma, che comportano addirittura l'entrare in uno stato estatico e addirittura in Grecia addirittura lo sparagmosso, cioè le baccanti, le seguaci di Dioniso che sbranavano a mani nude gli animali e li mangiavano, e poi nelle baccanti di Olimpia di cui parlava prima Morigi arriva una baccante, arriva a mangiare il figlio avendolo scambiato per un animale. Ma in tutte e due, in questi casi, anche di nuovo, queste persone perché hanno bisogno di ricorrere a questi riti, di arrivare a questo che lo si chiama l'entusiasmo per raggiungere la felicità? Sempre per sfuggire a un contesto sociale di grande insicurezza, di infelicità, al quale non trovano rimedio, tra l'altro perché le religioni antiche non consentivano, tra l'altro quello che è un rifugio molte volte a tutte queste cose, e cioè il rapporto individuale con la divinità. Le religioni antiche erano religioni, diciamo, politiche, erano riti, ma non si entrava in contatto individuale, personale col Dio. E allora questi riti, le riti dionisiaci, i riti bacchici, servivano a poco, erano riti misterici ed erano, questa è un'altra cosa importante, erano riti socialmente sovversivi, tant'è vero che vengono criminalizzati e puniti con grande severità. Ma noi, professoressa, e poi riprenderemo questo affascinante argomento, dato che oggi la sovversione è intesa come regola, l'uscita dal mondo attraverso sostanze psicotrope, violente irruzioni chimiche, è considerata qualcosa ormai alla portata di tutti, non abbiamo più questa possibilità meravigliosa di usarla soltanto nei momenti privilegiati? Sì, questa non abbiamo... Sì, però io trovo una cosa che mi impressiona molto, questo fatto che oggi in qualche modo si ricorra a quello a cui si ricorreva, per esempio, appunto il bisogno di uscire da se stessi e di perdersi completamente in gruppo, poi ecco, questa è la cosa che mi sembra però possa in qualche modo avvicinare la situazione di oggi a quella dei riti di dionisiaci o bacchici. Grazie professoressa Cantarella del suo breve ma intenso contributo sul rito dionisiaco, argomento mi sembra importante e degno di nuovo approfondimento. Grazie a Paolo Corleoni e a Fabrizio Intonti, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Felici